Salva Danaio di Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Chiedo subito scusa per la voce, ho avuto un tracollo del fine settimana, insomma, però spero lo stesso di potervi tenere allegramente compagnia. Oggi Salva Danaio, puntata speciale, come hanno fatto tutti i colleghi nel fine settimana, anche noi siamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino. E naturalmente, che tipo di argomento abbiamo portato a Salva Danaio in questa occasione? Abbiamo voluto presentare un libro anche noi. Adesso vi dirò qual è. Prima però, come sempre, per Salva Danaio parte con delle informazioni di servizio, informazioni di borsa, ma ve ne devo dire anche un'altra. Come sapete, in genere il lunedì a Salva Danaio portiamo le guide pratiche del Sole 24 Ore. Oggi, ovviamente, essendo al Salone del Libro, abbiamo dato invece un altro oggetto alla nostra trasmissione, però volevo solo ricordarvi che oggi il Sole 24 Ore pubblica una guida pratica speciale sulle semplificazioni edilizie per la ristrutturazione della casa, per cui è un tema molto importante che a Salva Danaio portiamo spesso, lo porteremo nel corso della settimana, ma intanto vi anticipo anche questo. La borsa oggi è una giornata piuttosto interessante, sarà sicuramente uno dei temi che affronteremo anche nel corso della nostra trasmissione con i miei ospiti. Io lo dico alle persone che sono qui in sala, qui al Salone del Libro, ma lo racconto anche così in modo che possano visualizzarlo nella loro immaginazione agli amici che invece ci seguono da casa. Ho due ospiti con i quali sicuramente commenteremo la giornata di borsa e tutte le cose un po' folcloristiche e non tanto divertenti che stanno succedendo, perché come sapete è stato arrestato per queste molestie, poi vedremo insomma cosa è successo nella verità, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Questa è oggi la notizia sulla quale tutti gli operatori stanno concentrando la loro attenzione, stanno mandando giù la borsa pesantemente, non sappiamo se la notizia sia proprio questa. Faccio una cosa inedita, faccio la borsa con Marco Fratini, che vedete qui alla mia sinistra, lo dico alle persone in studio, perché oltre ad essere caporedattore dell'Economia della 7 e quindi è la persona alla quale Enrico Mentana ogni giorno assegna i più bei, coloriti pezzi del suo telegiornale, e sono quelli di economia. Io con Marco ho lavorato per anche anni. Lui fa i suoi errori, insomma. Vabbè, dici che l'ha fatto con te? No, assolutamente no. Allora, vi racconto questa cosa perché mi piace farlo. Con Marco ho lavorato per anni alla TV del Sole 24 Ore e siamo stati in questa identica posizione per almeno 4 anni, vicini di banco. E con lui abbiamo raccontato la borsa esattamente come lo sto facendo io adesso, dagli schermi della televisione, ci siamo divertiti anche parecchio. Come la racconteresti, Marco, questa borsa? È possibile che l'arresto di Dominique Strauss-Kahn stia mandando a picco i mercati? Parigi perde 1,5%, Francoforte l'1,49%, Londra lo 0,79% e Milano 1%. Tutte le banche scendono, però sì, forse qualche ragione legata al suo arresto c'è. Insomma, il bunga bunga è un bel driver per i mercati, eh? Cioè una mattina si sveglia, trova queste belle notizie. Io credo che dietro ci sia una bella operazione, anche se credo che poi qualcosa di vero ci sia. Gli americani non vanno tanto per il sottile, l'hanno fatto scendere dall'aereo, l'hanno arrestato. Hanno già quantificato gli anni di carcere che potrebbe farci. Una ventina, sì, un po' meno di Madoff, ma insomma probabilmente lo mettono nella cella vicina. Però adesso, a parte questo, era da un po' di tempo che in Francia era cominciata l'operazione. Aspetta un attimo, tu che già lo vedo che vuole... Vuole fare Strauss, io faccio Kahn, quindi, ma quelli col doppio cognome in genere non è che funzionano tanto bene. Però era iniziata da un po' di tempo, un'operazione così di visibilità mediatica di Strauss-Kahn. Io avevo letto un po' di giornali francesi nelle ultime 2 settimane, lo riprendevano che scendeva dalla Porsche con l'amica mora, con l'amica bionda. Quindi probabilmente, se è un complotto come qualcuno dice, è un complotto che parte sicuramente da una debolezza che ormai qualcuno aveva individuato. Aspettiamo di vedere, gli americani sono forti. Infatti, allora, law and order, quindi sono loro che indagano. Perché le banche scendono tanto oggi? Perché oggi a Bruxelles, anche con la presenza di Dominique Strauss-Kahn, si sarebbe dovuto discutere del nuovo pacchetto di aiuti da varare per la Grecia, altri 60 miliardi che devono essere erogati anche dal Fondo Monetario Internazionale. Forse questo arresto potrebbe causare una battuta d'arresto anche per questo piano. Marco Fratini ve l'ho presentato. Marco Fratini, insieme a Lorenzo Marconi, ha scritto questo libro. Dedicato a Strauss-Kahn, sempre di mutande si parla, adesso sembrerebbe anche un po', come dire, una forzatura, oggi ci divertiamo con questo argomento, però Lorenzo Marconi ve lo presento anche qui alla mia destra. Lorenzo Marconi, consulente finanziario, ha fatto un sacco di cose nella sua vita e negli ultimi tempi si sta divertendo a farne una che con la finanza c'entra un po' poco, ha aperto una serie di gelaterie a Milano, però insomma, come dire, le vie della finanza sono infinite, Lorenzo. Ma sì, assolutamente. Intanto volevo fare una battuta su Strauss-Kahn. Sia per Strauss-Kahn che per Madoff sempre di sodomia si è trattato a livelli diversi. Per cui la pena è stata questa reazione del mercato e la batosta, che comunque so che anche se adesso ti dedichi a gelati, però la finanza è una passione che non muore mai, che non muore mai nel DNA. A me piace sempre dire che i mercati hanno sempre bisogno di una scusa per scendere o per salire. In verità la debolezza delle banche di oggi credo che sia più da ascrivere alle problematiche continue che abbiamo su diversi stati sovrani, in primis sulla, chiamiamola, ricapitalizzazione del debito della Grecia, per cui insomma credo che le difficoltà dei titoli bancari in questo momento nascano da quello più che dalla situazione grottesca in cui si è trovato. È grottesca. Dominic, come vogliamo chiamarlo? No, veramente questa. Tra l'altro, Marco Lorenzo hanno presentato il loro libro all'inizio di aprile. La conferenza stampa di presentazione c'ero io, gli ho moderato quel convegno. Quel giorno si era dimesso Cesare Geronzi. Tutte le volte che io me li porto da qualche parte succede qualcosa. Quindi adesso dobbiamo riorganizzare al più presto un altro impegno pubblico per, non lo so, attirare. Cosa succede? Esatto, chissà se siamo noi che lo tiriamo oppure insomma la fortuna un po' ci accompagna, perché poi vivacizza anche le nostre conversazioni. Le nostre solite informazioni di servizio: potete scriverci al 349-238-6666, lo dico a chi ci ascolta da casa. Ci potete chiamare all'800-24-0024. Chi è qui invece in studio al Salone del Libro di Torino? C'è Laura Vanossi che ha un microfono in mano, per cui se volete intervenire, farci delle domande, chiacchierare amabilmente con noi, noi vi ascolteremo molto volentieri. Allora, il pretesto per invitare Lorenzo e Marco è stato appunto la pubblicazione del loro ultimo libro, Mutande di Ghisa. Sono gli autori anche degli altri due volumi che vedete qui di fronte. Due veri successi, due casi editoriali, soprattutto il primo, Vaffanbanca. Due casi umani, loro due. Vaffanbanca è stato pubblicato nel settembre del 2008. Quello che è successo in quel periodo, ve lo ricordate tutti, tracollò Lehman Brothers, si portò dietro i mercati. Per un certo periodo abbiamo visto le borse che scendevano da un giorno all'altro del 10%, risalivano del 10%, una volatilità che ha spaventato un po' anche noi, ce lo siamo detto tante volte. L'anno dopo poi sono ritornati in libreria, magari anche in edicola con la versione... No, non ci siete andati con la versione Lorenzo? No, solo in libreria. Sì, è legata a Topolino, quella, mi ricordo che c'era anche quella. In libreria con la seconda, con il secondo volume... Un paperoga che spiegava gli investimenti. Vaffancrisi, sempre settembre 2009. Poi la gestazione di Mutande di Ghisa è stata un po' più lunga, non è stata il terzo anno consecutivo, Lorenzo Marconi, come mai? Ma la verità è che eravamo sfiniti dalle... Perché prime due. Ci siamo fatti tirare dentro, come si dice, e le presentazioni... sull'onda del successo di Vaffanbanca, con Vaffancrisi ci siamo un po' cascati e abbiamo fatto qualche presentazione di troppo, e per cui eravamo veramente stanchi. Abbiamo cercato di saltare un giro, in effetti un giro non l'abbiamo saltato perché ne abbiamo saltato mezzo, e invece di uscire a settembre come al solito siamo usciti a marzo con questo Mutande di Ghisa, che direi che è la naturale conseguenza di quello che è successo in questi anni. Insomma, tu prima parlavi di guida pratica al lunedì da parte del Sole 24 Ore, ma io direi che più guida pratica di una mutanda di Ghisa in questo momento non ci possa essere, nel senso che purtroppo sia parlando di scelte finanziarie, ahimè, dove veniamo sempre coinvolti dal punto di vista emotivo, dal punto di vista comportamentale, e troppo poco si parla dell'aspetto comportamentale legato alle scelte finanziarie, invece ci si riempie sempre la bocca delle cosiddette technicality, per cui bisogna sempre insegnare alla gente che cosa compra, ma non come deve utilizzarlo. E poi diciamo che abbiamo allargato il discorso non solo alle scelte finanziarie, ma ci siamo spinti agli aspetti legati al supermercato, agli spot televisivi, insomma abbiamo allargato la tematica per uscire un po' da questo, per affrancarci un po' da questo ruolo di... Avete allargato la tematica, però comunque il filo conduttore, Marco, rimane sempre quello, la difesa o l'autodifesa da che cosa oggi? Insomma, ci dobbiamo mettere le mutande di Ghisa per difenderci da chi esattamente? Allora, innanzitutto le mutande di Ghisa si mettono nel cervello, sopra, sulla testa, perché quello che abbiamo come impressione è che tutto quello che ci arrivi addosso come bombardamento mediatico, ma anche di linguaggio, di informazioni spesso più o meno dopate, poi abbia una caratteristica unica, e cioè quella di spingerci a fare le cose che non sempre sono cose buone per noi, ma sono cose spesso molto buone per chi ci impone in un modo o nell'altro di farle. e qui c'è tutto il meccanismo della promozione, della pubblicità, ma anche il linguaggio che spesso viene utilizzato, e qui parliamo di finanza, no? Parliamo di economia, il linguaggio che è usato dall'economia, che è usato dalla finanza, continua ad essere un linguaggio che non ci aiuta a capire. C'è qualche mossa in questo senso, abbiamo visto la Consob che si è mossa, c'è un decalogo di buon comportamento, ma è chiaro, no? La parola guadagno, profitto, rende, è tutto quello che poi ci scatta nel cervello e che ci fa fare spesso delle scelte che sono quasi obbligate, se ci consideriamo poi vittime, no? Predestinate di questo bombardamento che ormai continua e continua da anni. Noi ci aspettavamo che dopo Lehman Brothers qualcosa cambiasse in questi anni, e invece no, invece dobbiamo ancora difenderci, e forse adesso dobbiamo difenderci ancora di più, perché è passato il messaggio che qui nel nostro paese, per esempio, ci eravamo salvati perché le banche erano brave, belle, perché il nostro sistema è corretto, è perfetto, sono molto bravi. In realtà non è andata proprio così. Prima di tutto ci siamo salvati perché il nostro sistema è vecchio, e poi non ci siamo salvati per merito di tantissime grandi banche commerciali, ma perché abbiamo la banca del territorio, abbiamo la banca popolare, e poi soprattutto abbiamo la famiglia. Non dimentichiamoci mai che in questo paese la crisi l'abbiamo superata perché c'erano le famiglie che cacciavano i danè. L'elevato tasso appunto di risparmio privato. Allora, noi stiamo già andando, mi stanno dicendo dall'area sinistra della nostra postazione qui al Salone del Libro, sì, che abbiamo ancora 30 secondi di tempo, li spendo per ricordare ancora sia gli amici che ci scrivono da casa, che possono continuare a farlo al 349-238-6666, possiamo sicuramente anche prendere delle telefonate, anche se siamo qui, all'800-24-0024, se invece gli amici che sono qui al Salone del Libro volessero poi dopo approfittare del nostro microfono e chiacchierare con noi, saremo ben contenti di interagire anche con voi. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, rimettetevi le cuffie, lo dico ai miei indisciplinati ospiti, Marco Fratini e Lorenzo Marconi, gli autori di Mutande di Ghisa, che in realtà è il terzo libro di una serie anche piuttosto fortunata, Vaffanbanca e Vaffancrisi, appunto. E grazie, sono per sicura... il piuttosto, perché... Molto fortunata, dovevo grazie. Dire. No, sicuramente Vaffanbanca è stato un caso anche no, fortunato, perché in quel periodo sicuramente la cronaca finanziaria vi aveva un po' aiutato. Fortuna con la C maiuscola, abbiamo aperto lo stesso giorno in cui chiudeva Lehman Brothers. Sempre per tornare a raccontare tutte le volte che ci incontriamo e che capita qualcosa. E adesso li ho rimessi insieme proprio nel giorno dell'arresto di Dominique Strauss-Kahn. Però, insomma, a parte questo arresto, l'effetto che sta avendo questa notizia oggi sulla borsa, era anche interessante un po' capire tutto il contesto nel quale questo mercato si sta muovendo. Mi hanno fatto una premessa prima di cominciare la trasmissione, mi hanno detto molto carinamente: parliamo poco del libro. No. Me l'ha detto lui Lorenzo, però magari a Lorenzo non fa piacere. No, che cosa ne pensate di quello che sta accadendo? Perché ho visto che, per esempio, noi stiamo continuando a raccomandare, non noi perché non lo possiamo fare, ma almeno sento gli esperti che stanno ovviamente suggerendo grande prudenza sulle obbligazioni dei governi, soprattutto di quelli che adesso stanno avendo questi tassi di rendimento elevatissimi, la Grecia in primo luogo, il Portogallo e l'Irlanda. E invece c'è chi ha la tentazione, ovviamente, proprio per spuntare questi rendimenti così alti, di andare a metterci anche una bella fettina del proprio risparmio. L'effetto Parioli, c'è il rischio sempre dell'effetto Parioli. Sento il consulente finanziario, che cosa ne pensa. Lorenzo Marconi. Ma siamo un po' alle solite, se posso essere molto sincero. Nel senso che stiamo sempre qui a parlare dei prodotti e mai parliamo sufficientemente del comportamento e del ruolo del cliente. Io veramente vorrei fare uno stop, perché per 30 anni abbiamo insegnato alla gente, ammesso che ci siamo riusciti, a conoscere un po' i prodotti finanziari, e abbiamo parlato veramente troppo poco ai clienti di chi sono loro, di quale ruolo devono assumersi. Visto che Marco non vuol parlare del libro, lo faccio io, perché abbiamo dedicato ampio spazio a questo tema, al tema della consulenza e la cosiddetta consulenza comportamentale, perché riparto dall'ultimo concetto che ha espresso Marco sull'uso del linguaggio. Il linguaggio, sia quello esterno che ci influenza, sia quello interiore, influenza incredibilmente il pensiero, e il pensiero influenza i comportamenti, e di fatto noi siamo quello che pensiamo e come ci comportiamo. Purtroppo E qui è brutto, mi spiace dirlo, dirò una cosa impopolare, però magari forse serve dare ogni tanto un cazzotto nella pancia. Cioè, i clienti sono troppo assolutamente, come dire, sperano troppo che qualcuno faccia qualcos'altro al posto loro e non si assumono il ruolo invece della consapevolezza del cliente. Cioè, il cliente, fare il cliente è un ruolo, continuare a parlare di prodotti finanziari è un po' come parlare semplicemente del coltello ma non guardando il suo utilizzo. Il coltello è buono o cattivo? A me tutte le volte mi chiedono se un prodotto finanziario è buono o cattivo. Il prodotto finanziario, per definizione, e così rispondo alla domanda e non mi esimo dal farlo, è parlare dell'obbligazione degli stati sovrani oggi, a parte che il rischio di alcuni stati sovrani non è oggi una novità, perché voglio dire, forse parlarne oggi, come direbbe il mio amico Marco, è parlare di un'autopsia e non di una diagnosi. Ma come sempre, ripeto, andiamo a parlare del prodotto finanziario. Il prodotto finanziario per definizione non è né buono né cattivo. Il coltello è buono o cattivo? Se ci tagli la fiorentina è buono, se lo usi per ammazzare qualcuno il coltello diventa cattivo. E così è nell'utilizzo del prodotto finanziario che il cliente fa. Ma se il cliente non conosce se stesso, non conosce e approfondisce i propri obiettivi finanziari, torniamo lì, comprerà sempre i prodotti in funzione delle mode del momento, in funzione di questo maledetto rendimento e mai in funzione di un'analisi corretta del rischio prima che del rendimento. E anche qui vogliamo dargli un alibi: per 30 anni gli hanno insegnato a guardare le classifiche dei rendimenti. Oh, mai che non c'è un giornale che pubblica una classifica dove di fianco alla colonna del rendimento c'è la colonna del rischio. Ma perché? Questa è una distorsione dell'informazione. Poi ci lamentiamo se il cliente è disinformato. No, noi ultimamente l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato un rating però. Sì. Avete fatto la classifica dei rischi? Abbiamo fatto una classifica di rendimento e di rischio su alcuni prodotti, come dire, da banco, no? I famosi conti online, e abbiamo fatto un errore perché non abbiamo aggiornato il rating di Banca IFIS, si può dire, che invece nel frattempo è migliorato, e quindi ci siamo dovuti assumere la nostra responsabilità per aver fatto comunque una cosa utile che in genere non si fa mai. Mi sembra piuttosto evidente che non siate perfetti. No, assolutamente. Però per tornare appunto al tema del libro, cosa significa per noi Mutande di Ghisa? Perché il nemico numero uno che noi abbiamo è il nostro cervello. Il nostro cervello che preferisce dolci menzogne piuttosto che delle amare verità. Il nostro cervello che cerca delle scorciatoie, adesso dirò una parola brutta, attraverso le euristiche, che sono appunto delle scorciatoie che il nostro cervello utilizza per semplificare tutta una serie di comportamenti. E quello che si devono rendere conto i clienti, appunto, è che il pericolo numero uno siamo noi stessi. Di qui, di conseguenza, bisogna imparare a diversificare, e così quando parliamo di titoli con grandi rendimenti non è detto che non ci debbano stare. L'importante è che la dose di pepe sia proporzionale alla dose di spaghetti. Se uno mangia il pepe con due spaghetti dentro, magari non è proprio divertentissimo. Intanto volevo dirvi anche quelle che sono le telefonate che sarebbero in arrivo. Adesso non credo di riuscire a sentire queste persone. Un'ascoltatrice vorrebbe sapere come si chiama quel libro di una giornalista con un'altra persona che costa 19 euro, come si fa a campare senza diventare poveracci. No. Potrebbe anche essere questo il vostro prossimo esercizio intellettuale. 19 euro, cioè diventare esatto. Poveracci, ma 19 tanto euro per cominciare, cominciamo. Un salasso come libro. Vabbè. Tu sulla Grecia, Marco, volevi aggiungere qualcosa? Ti appassiona l'argomento greco? Il dato l'ho letto sul Sole 24 Ore, quindi mica pizza e fichi. Inappuntabili. No, allora, la cosa che mi ha colpito è che mentre le banche, e lo abbiamo detto in queste ore, no, sono uscite dall'investimento greco, comunque hanno ridotto, come si dice tecnicamente, l'esposizione nei confronti della Sirtaki Bond, nell'ultimo anno, porca miseria, i piccoli investitori sono andati a riempirsi di quei bond. Allora io mi chiedo, ma è cambiato qualche cosa? Qui non è cambiato niente. Continuiamo a vivere, a sopravvivere sugli errori di sempre. Questo è un sistema che continua a basarsi sugli errori, non voglio chiamarli poveracci come li chiama la nostra ascoltatrice, ma nostri, i nostri errori, di piccolo risparmio. E questo è un problema serio. Perché poi dopo andiamo in televisione a dire che il nostro sistema non c'ha problema, noi siamo assolutamente parati, il nostro è un sistema solidissimo. Poi però troviamo che i piccoli risparmiatori italiani sono entrati sulla Grecia. Allora, se l'hanno fatto da soli, si può dire cavoli loro. Ma se l'hanno fatto seguendo dei consigli che gli sono arrivati direttamente o indirettamente da un pezzo letto sul giornale, da un amico bancario, da una pubblicità, dal solito cavallino giusto, il venticello sottile che soffia, e allora per l'ennesima volta ci ritroviamo di fronte al disastro della nostra ignoranza su queste cose. siamo ancora rimasti al palo da quel punto di vista. Non cresciamo. E c'è stata l'Argentina, e c'è stata la Parmalat, e c'è stata Lehman Brothers. Speriamo che non ci sia la Grecia nella peggiore, no? Nella peggiore deflagrazione della sua crisi. Ma è un fatto che continuiamo a comprare Grecia. Perché? Perché, come dicono ai Parioli, ti dà il 10% di rendimento. E allora però svegliamoci, perché non tutti abitiamo ai Parioli. Allora, c'è qualcuno tra di voi che vuole farci una domanda? Eccolo qua, il nostro signore, con il quale peraltro chiacchieravamo anche amabilmente prima dell'inizio della nostra trasmissione. Come si chiama? Mi chiamo Beppe Cavaglià, per gli amici che non sono presenti. Ho detto anche il cognome. Una parte, la risposta alla mia domanda l'ha già data il dottor Marconi. Quella del coltello. Praticamente la mia domanda era, la finanza, non capiamo niente. Tutti gli economisti, cosa hanno previsto prima? Niente, ma ne capiscono come noi, cioè niente. Certo. Oppure... Sa che cosa rispondono gli economisti? Sì. Io ho ancora in mente, facciamo nomi e cognomi, si vai, può fare. Vai. Io ho in mente una frase che secondo me passa alla storia di un grandissimo economista, Fitoussi, al Festival dell'Economia, mi pare di un paio d'anni fa, a Trento, in cui diceva, ma qualcuno, lui diceva un po' in francese, qualcuno l'aveva capito qua e là, però, sa, dire che era la crisi significava andare contro il pensiero dominante, come dire, se tu ti accorgi che una cosa sta andando male, ma tutti dicono che va bene, se tu dici che va male, porti sfiga. Questo era il senso. Però io mi chiedo, no, davanti a questi casi in cui grandi pensatori, no, persone che noi onestamente riteniamo simbolo di un certo tipo di anche studio, di accademia, ma se loro non si prendano neanche loro la responsabilità di quello che insegnano, di quello che vedono e che dovrebbero vedere con degli occhi tecnici migliori dei nostri, vuol dire che siamo proprio messi male, altro che mutande di ghisa. Infatti, anche perché non ci dimentichiamo che sta di nuovo accadendo ora, Lorenzo Marconi, diciamo la lezione della crisi, le banche l'hanno appresa relativamente, se sono ritornate di nuovo a buttare sul mercato prodotti ad elevatissima leva finanziaria, molto sofisticati, di nuovo derivati che rischiano di finire ancora nelle tasche di piccoli risparmiatori. Qui questo è un altro bel tema, il tema della consulenza rispetto al tema della vendita di prodotti finanziari to cure. Io credo che insieme all'educazione finanziaria per clienti poi debba cambiare anche qualcosa nel rapporto appunto di consapevolezza reciproca, perché se chiediamo al cliente di essere un cliente consapevole, forse dall'altra parte bisognerebbe che ci fossero anche degli intermediari consapevoli. Ed è chiaro che invece quando dall'altra parte gli intermediari hanno un'attenzione maggiore al proprio conto economico e non anche alla soddisfazione del cliente, è chiaro che la costruzione di prodotti con la leva finanziaria ad alto margine commissionale sono tutte cose che comunque ritornano, perché alla fine la cosiddetta centralità del cliente è uno slogan pubblicitario ma non è realmente un comportamento. Però sugli opuscoli fa la sua porca figura, centralità del cliente, io so centrale. Adesso taglio la lingua ad entrambi. Allora, dobbiamo andare di nuovo in pausa, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio. Nell'ultima parte di Salvadanaio con Lorenzo Marconi e Marco Fratini, gli autori di Mutande di Ghisa, vorrò sapere che cosa leggono loro, che cosa possiamo suggerire a chi ci ascolta per essere più consapevoli nell'investimento finanziario. E soprattutto, Lorenzo, tu lo sai che io fino allo sfinimento ti faccio sempre questa domanda in ogni occasione pubblica in cui ho l'opportunità di farlo: come si fa a scegliere un buon consulente finanziario? Ma chi ce lo dice? Qual è quello affidabile? Lo dobbiamo guardare in faccia, ci dobbiamo affidare a pelle? Come possiamo fare? A tra poco. Eccoci qua, continuiamo a metterci e toglierci le cuffie perché stiamo continuando anche a chiacchierare amabilmente con tutte le persone che sono intervenute questa mattina qui al Salone del Libro di Torino, da dove Salvadanaio oggi è in diretta. Siamo stati qui da giovedì scorso, se non mi ricordo male, abbiamo cominciato le nostre trasmissioni. Oggi, dopo di me, concluderà Gigi Garanzini. È stato davvero un percorso molto bello, molto entusiasmante per tutti noi. Noi a Salvadanaio abbiamo portato gli autori di questo libro, io lo mostro a chi è qui in studio con noi, Mutande di Ghisa, sono Lorenzo Marconi e Marco Fratini, ve lo ricordo ancora, ed eravamo rimasti prima della nostra pausa con una provocazione che piace molto, visto anche che avevo così dei cenni di consenso da parte del pubblico. Hanno scritto in tanti. Hanno scritto anche in tanti. Adesso tra un po', Marco, ti mando anche delle domande. C'è un ascoltatore di Bologna e poi rispondiamo anche sull'utilizzo del coltello di Lorenzo Marconi, appunto questa indicazione che ci dava prima. Sentiamo però Francesco da Bologna intanto. Francesco? Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La mia domanda voleva essere questa, anzi più che una domanda, voleva essere una, diciamo ancora una cosa più provocatoria di quello che c'è scritto nel libro, perché purtroppo ci sono tantissimi funzionari di banca che non eseguono quello che anche vorrebbero fare, ma eseguono solo gli ordini che vengono dall'alto. Io ho un caso di un cliente mio che gli è capitato questo, dà delle istruzioni assolutamente inconfondibili, inconfondibili per quanto riguarda l'uscita dall'azionariato. La banca non esce dall'azionariato, continua a tenere questo, c'è stato poi naturalmente è andato un contenzioso, causa eccetera eccetera, la banca si è difesa dicendo è vero sì che tu mi hai dato l'ordine di uscire dal contenzioso, dall'azionariato, ma non mi hai detto che cosa devo comprare. Questa è una cosa assurda, è una cosa assolutamente fuori dal grazie di Dio, c'è un Francesco, grazie, probabilmente sì, forse c'era un'uscita dall'azionario che stava suggerendo. La banca di Paperino, questa. Esatto, no, però detto questo, il tema è che si va spesso in banca, ci si rivolge al funzionario che è lì allo sportello, gli si chiede come posso distribuire il mio risparmio e la risposta del bancario è in genere noi in questo periodo stiamo vendendo molto bene questo prodotto, non gli si fa mai la domanda che cosa ti serve esattamente, cosa devi fare nel medio, nel lungo periodo, insomma, di questo denaro. Lorenzo. Beh, nonostante adesso non diamo neanche tanto addosso a questi ragazzi che lavorano in banca, però magari anche perché sono amici, cioè loro rispettano il sacro dovere di portare a casa lo stipendio e di dover fare quello che chiaramente qualcuno gli dice. Ma intanto dal 2007 c'è una normativa che si chiama MiFID che dovrebbe regolare i rapporti tra banca e cliente, che dovrebbe essere attuata. Capisco che qualcuno in sala fa cenni di disappunto, ma c'è. Per me non doveva neanche esserci perché la MiFID c'è, ma un po' ce fa pure. Esatto. Sì. Però il problema è come obbligare i sarti a prendere le misure ai clienti se si vogliono fare i vestiti su misura. Mi sembra una normativa un po' sterile. Per quanto riguarda l'osservazione del radioascoltatore, beh, il mal di budget ormai è una cosa nota. Purtroppo sotto la scrivania di ogni bancario c'è uno scatolone con il prodotto del momento, si vendono come la frutta di stagione. Se quel mese ci sono le pere e le mele va bene, se ci sono i carciofi è un po' più doloroso, ma sono indigesti. Sempre di frutta di stagione. No, perché alle punte. Tra l'altro su questo argomento forse c'era una domanda anche di una signora del pubblico, Laura. Sì. Signora, come si chiama? Anna. È di qui di Torino? Non proprio, sono stata molti anni a Torino, adesso abito da un'altra parte. Grazie per esserci venuta a trovare allora. Grazie a voi. Niente, volevo soltanto dire che comunque in banca si fa di tutto per scoraggiare chi vuole investire per conto proprio, viene sempre detto ma lei non se ne intende, è meglio che ci pensiamo noi, sottoscriva questo fondo o quell'altro fondo. Ma lei riesce a fare da sola? Sì, io personalmente faccio da sola, però ma dedica molto tempo di quello che ha a disposizione alla cura del suo investimento, come una fa? Una mezz'oretta al giorno tramite internet, insomma ogni tanto mi collego, guardo qual è l'andamento e decido. E quindi insomma quando l'impiegato in banca la vede arrivare gli vanno già sui capelli dritti? No, con me non ci provano, però lo so per certo perché comunque ho tanti amici che lavorano in banca e so che cosa devono fare, che sono costretti a fare queste cose, perché comunque diciamo che è sempre il solito discorso che l'ignoranza della gente fa tanto bene a qualcuno. Esatto. Allora Marco, certo che tra l'altro è volato Salvadanaio, solamente 4 minuti prima di chiudere, pazzesco. Ma se vuoi torniamo, tra la consulenza e noi torniamo, scrivete un altro libro tra la consulenza sbagliata e il fai da te, ci sarà un equilibrio, una via di mezzo? No, ci dovrebbe essere una via di mezzo, ma non c'è l'equilibrio. Questo è il vero problema. Non siamo equilibrati quando scegliamo i nostri investimenti, mentre invece magari quando dobbiamo scegliere una macchina stressiamo il concessionario, compriamo decine di migliaia di riviste di settore per capire qual è la migliore macchina che potrebbe servirci, poi magari ci facciamo venire le fisse se c'ha l'accendisigari o no e magari neanche fumiamo. Il problema è che quando invece si tratta di investimenti tendiamo a fare in modo che quella scelta, che invece dovrebbe essere una grandissima scelta personale per noi, per la nostra famiglia, venga delegata a qualcun altro. E qui l'errore, perché c'è un sistema che seculorum si è mosso così per fare in modo che quel tipo di scelta venga preso in un modo o nell'altro da altri e comunque non troppo direttamente da noi. Io volevo anche riagganciarmi al discorso della MiFID. La MiFID è uno strumento fondamentale, importantissimo, però attenzione, perché spesso c'è il dubbio che sia più una liberatoria a favore della banca che non una reale presa di coscienza da parte del cliente. E siamo sempre lì, cioè questo è un problema che abbiamo nel nostro sistema, non è un problema solo italiano, però sicuramente in Italia, proprio per la presenza di banche e di un certo bancocentrismo, l'ha detto anche Vegas durante la relazione della Consob, mai sentito io quel termine, l'avevo letto su Vaffanbanca, l'avevamo scritto insieme, eppure Vegas nella relazione Consob a pagina 14 parla di bancocentrismo. Se lo dice Vegas, sicuramente più di due scappati di casa come noi ne sa. Ho due minuti di tempo, vediamo di chiudere rapidamente con una battuta con entrambi. Lorenzo, ti piace l'approccio della signora Anna, se non ho capito male? Come si usa bene il coltello di cui parlavamo prima? Come facciamo a scegliere un buon consulente finanziario? Se lo so che avremo bisogno di altre tre ore. No, so ma che però sarò rapidissimo. Allora, per me il fai da te sui mercati finanziari è una roba terrificante. E i clienti credono di sapere, ma non sanno proprio, per cui... Io lo sconsiglio, e invece consiglio ai clienti di avere una consapevolezza di ruolo, perché quando andate dal macellaio, quando andate dal dottore, quando andate dall'avvocato, assumete un ruolo e non vi sostituite. Invece purtroppo, per la famosa regola delle tre F, in Italia si pensa di poter parlare di finanza, di un'altra roba e di football in maniera autorevole, basta con 30 minuti al giorno di internet o leggendo i giornali. Questo secondo me è veramente autolesionismo. So che anche questa è una dichiarazione impopolare, però siccome ho lavorato ormai 26 anni nel settore e di portafogli di clienti che usano il fai da te, che hanno fatto tantissimi soldi, onestamente non li ho mai visti. Le statistiche americane, tra l'altro, parlano molto chiaro: il 92% della clientela fai da te perde soldi e solo l'8% guadagna, per cui insomma il giusto equilibrio sta nel trovare una consapevolezza di ruolo reciproco. Stai facendo arrabbiare la signora Anna, no? Non possiamo sentirla, poi la faccio discutere con Lorenzo alla fine della trasmissione. No, lui sta sicuramente commentando i casi estremi, esatto, del fai da te. Chi cerca il titolo greco all'8%, probabilmente lei già tutto il tempo che dedica alla cura del suo portafoglio le porte. Poi ne parliamo. Posso concludere? Sì, ci vuole una consapevolezza di ruolo nel cercare il giusto rapporto, la giusta relazione con la propria banca. Io devo essere educato finanziariamente per conoscere cosa mi stanno proponendo, non per essere io il proponente principale. C'è una bella differenza. Mi spiace che non ci sia tempo, ma comunque hanno ricominciato a finanziare le smart, l'avevano fatti in Spagna, non era andata tanto cos'era bene. Cos'era finanziare? No, smart. Non si può dire. Allora non lo diciamo. Prossimo libro, Marco, cosa state lavorando a qualcosa? Vedremo. Allora, prossimo appuntamento sicuramente sul TG della 7 stasera, il pezzo più divertente di tutti i telegiornali su Dominique Strauss-Kahn, sono sicura che lo scrive Marco. No, già l'hanno oggi scritto, pomeriggio. Già è stato fatto. Tu invece gelati a tempo pieno, oppure Lorenzo altri libri in programma? Per adesso siete quieti, visto il tempo, stranamente ci occupiamo dei gelati. Io vi ringrazio molto per aver avuto la pazienza di stare qui con noi, grazie. Io ringrazio tutto lo staff tecnico che è nutritissimo, i ragazzi che sono venuti appunto a Torino, in particolar modo Marco Lombardo, Laura Vanossi, Roby Scaltritti, Pietro Lacorte, Davide Ciocia che sono lì dietro, tutti i ragazzi del marketing, Guido Scotti che vedo, non mi ricordo tutti gli altri nomi, e speriamo di rivederci qua l'anno prossimo anche con Salva Danaio al Salone del Libro. Buona giornata a tutti.